Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, martedì sera, brussellando e... Giorgetto, siamo quasi alla fine! In che senso alla fine? Ma all'inizio. Siamo all'inizio della fine! Ogni fine è una nuova partenza, quindi siamo all'inizio. E siamo qui, siamo ormai veramente brussellando, anche quest'anno volge al termine, prima della consueta pausa estiva. E insomma siamo un po' tristi perché insomma la stagione è stata bella lunga e pensare di doverci salutare per qualche settimana un po' ci rattrista, però ritorneremo con tante grandi novità e con tante altre belle sorprese. Lo sai che volge al termine, non si può più dire. No? È stato bandito. Da quando? E da quando non so come, non so chi, come da si chi chiama, dice quando il giorno volge al termine e la notte non è ancora iniziata. So chi vi ricorda. Chi vi ricorda? Quando il giorno volge al termine e la notte non è ancora iniziata. Il grande Gigi Marzullo, che ormai ha vita. Questo potevi ricordartelo. E infatti per questo dico che volge al termine, si può più utilizzare, l'ha utilizzato lui. Ah, quindi basta, ecco, basta. Insomma, i suoi diritti d'autore sono suoi. Esatto, non dobbiamo non più sono dire. Nostri. No. Bene, questa è una puntata molto ricca, abbiamo due ospiti, il primo dei quali è già qui con noi e sono molto contenta di averlo nostra ospite perché il suo libro vale la pena veramente di leggerlo, vi conquisterà, se amate un po' il giallo, se amate soprattutto un ottimo libro in lingua francese, questo è il libro che fa per voi. Quindi ho il piacere di presentarvi Bozidar Frédéric. E Bozidar parla anche l'italiano, quindi abbiamo fatto un po' un compromesso, allora tentiamo di andare avanti in italiano e poi laddove sarà necessario poi cambiamo con il francese. Che dici Bozidar, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Ah, benissimo. Allora raccontaci un po' di te, una domanda semplice, di quelle cose sai che... così. Anche del nome. Che sì, nome? Perché ho fatto Bozidar. Molta confusione tra Bozidar e Frédéric. Fino a ieri sera nel mio immaginario eri Federico. E poi Gerard mi ha detto, il nostro comune amico Gerard Adam, che salutiamo, no, ricordati, il suo nome è Bozidar. E io ho detto, va bene, non lo dimenticherò. È vero che può essere una sorpresa. Bozidar è un nome croato. Govore Morvatsky. Perché sono nato sulla frontiera vicino di Trieste. Mm-hmm. I genitori erano italiani e il papà croato, allora ecco, compromesso. Bene, beh, mi sembra abbiamo essere un'ottima. La settimana scorsa, mi pare. Due settimane fa, in memoria va. Proprio di problemi di. Cioè, la storia del confine proprio di Trieste, una persona di Trieste. È stato estremamente interessante. Tu hai proprio una bella storia personale, insomma, hai lavorato in marina. Sì. E poi a un certo punto hai deciso di fare altro, di cambiare totalmente mestiere. Prima di tutto, come mai, allora, volevi fare il marinaio e poi perché hai abbandonato, hai lasciato? Perché mi mancava la cultura. Quindi a un certo punto ci sono state altre esigenze. E tu però allora sei nato in Croazia. Sì, come da papà detto, italiano e madre a Rijeka. No, vicino a Rijeka. Però poi siete Lucin piccolo. Ah, Lucin piccolo. Conosci? Sì, Mala Lucin. Bello, Mala Lucin. Lucin piccolo, Mala Lucin, dipende. C'è pure qualcuno che parla croato, ma è in regia, ma ora al momento è occupato, quindi però magari più tardi ci racconterà qualche cosa. Come mai in Belgio allora? È così. I genitori sono arrivati qui e anche io. E quindi tu hai dovuto seguire. E sono diventato professore di francese. Sì, esatto. Sì, professore di francese alle scuole superiori? Per gli adulti. E questo è il tuo primo romanzo? Sì, è il primo romanzo che si chiama Ciel Serein. Ciel Serein, che praticamente è anche, dico anche perché ci sono tante cose che andrebbero dette su questo libro, io non voglio svelare troppo, altrimenti anche il piacere della lettura poi potrebbe venir meno. Però, come mai hai deciso di ambientarlo proprio a Serein e di chiamarlo poi Ciel Serein? Hai deciso tu oppure l'editore? Ho deciso io. Questa è già una cosa molto rara, in genere tutti mi dicono non faccio che non decidere. Serein come la città di Serein, sì. Perché quando lo dici non lo vedi, ma quando è scritto sei come Serein, dove sono tanti italiani. E tu hai vissuto a Serein? Sì. Bene, e fortissimi. Cioè, c'è proprio una comunità fortissima a Serein. Credo di sì, credo. Tra che l'altro, è andato a recitare. Ho fatto una pièce teatrale a Serein 3 anni fa. Tra l'altro, il nostro secondo ospite, che spero arrivi, visto che col tram 81 ci sono dei problemi, il nostro ospite arriva proprio con l'81, ci parlerà più tardi proprio delle miniere in Vallonia, quindi insomma secondo me i due argomenti questa sera possono trovare dei punti in comune. E preferisci che parliamo in francese magari? On va essere a cambiare, se vuoi, sì. Allora, racconta un peu, il y a plusieurs thèmes en fait dans ton roman. Il y a la mondialisation, il y a la crise économique, il y a soi-disant des jobs qui gagnent tellement bien leur vie et qui ne sont pas contents. Oui. Et il y a plusieurs protagonistes qui essaient quand même d'avoir un peu un équilibre. Est-ce que tu peux un peu nous raconter quel était ton projet pour ces livres, et par exemple, qui sont les auteurs auxquels tu t'as inspiré? Donc, si tu as des écrivains que tu aimes bien, qui t'ont aidé, soi-disant, dans leur style avec ton roman, on peut commencer avec ça? Oui, il y en a sans doute, oui. Par exemple? Mais là, comme ça. Tu sais pas. Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Moi, j'ai bien aimé ton style, hein. Je le trouve excellent. Parce que parfois, je renonce à lire des livres en français parce qu'ils sont trop difficiles. Et cette fois-ci, je dois avouer qu'en fait, j'ai presque terminé. Hein. J'ai pas tout terminé, mais bien. J'ai bien aimé. Et j'ai trouvé un style simple, précis, même s'il est très riche en mots. Je veux dire, simplicité, ça, c'est pas nécessairement synonyme de. Comment on dit Des fautes de culture, oui, ou des voilà. Fautes de texture, ou des fautes des raisonnements derrière. C'est pas du tout le cas. Alors. Tu l'as lu. Non, pas encore. J'entends de lui d'aider Marilena à trouver à exprimer le mot. Ses mots. Alors, pourquoi tu as choisi donc d'avoir un raconte en 7 jours? Parce qu'il se développe en 7 jours, non? Oui. En fait, c'est une enquête policière. Et donc, voilà. Une enquête policière, ça met pas 2 heures pour être... Pour être réalisé, il faut quand même un certain laps de temps. Alors, quand on dit 7 jours, ce sont 7 jours, mais ce n'est pas 7 jours en suivant. Mm-hmm. Donc, c'est 7 jours qui sont racontés dans le livre. Mm-hmm. Voilà, parce que ça me semblait un bon chiffre. Et voilà, c'est le chiffre magique. Ouais. Tu n'es pas carré et tu n'es pas trop en porte-à-faux. Voilà. 7, c'est un peu un déséquilibre, mais en même temps, c'est assez complet. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bah, le 8e, il s'est reposé, non? Voilà. C'est le 7e. Hein. Ah, c'est le 7e. Non, c'est jamais. Là, c'est vrai, on pourrait dire. Le 8e jour de la création. Exactement. Mais il y a plusieurs histoires qu'on raconte dans ces livres. On commence par le commissaire. Mario Vukovic, ou oui. Comment tu dis souvent Mario dans les livres Vukovic, oui. Mario comment Mario comment, oui. Est-ce que tu as pris aussi inspiration par ta famille, ou c'est tout à fait de l'invention littéraire? Le nom, c'est tout à fait une invention. Mais je voulais montrer que il y avait un double personnage. Il y avait en même temps un latin et un slave dans cette personne-là, tu vois. Mmh. Voilà, c'est ça que je voulais lui montrer par le prénom qui est Mario, donc qui est plutôt latin, et Vukovic, qui est évidemment de l'autre côté de la frontière. Ouais. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui est en même temps d'un côté, en même temps de l'autre, il a ses doubles aspects. Et tu le mets ensemble avec Saïda. Eh oui, je le mets ensemble avec Saïda Benadi. Quel couple phénoménal, ça c'est. Bah, elle est mignonne, ma Saïda. Tout à fait. Je pense qu'il y a des ensembles. Et tu n'es pas encore arrivé à notre chapitre où Saïda va. Page 98. Ah oui. Où Saïda va développer un art. Oui. Ouais. Alors, donc, on est à Serein. On est, j'imagine, autour de. On peut dire 2000. Il n'y a pas une année, en fait, spécifiée, mais on peut déduire que. On est à Serein à la fermeture des hauts fourneaux. J'ai placé mes personnages à l'instant de la fermeture des hauts fourneaux, Et donc je place mes personnages, c'est-à-dire les travailleurs, sont à leur dernière pause. Oui, voilà. Tout à fait. Et d'accord. Quand ils ont fini leur travail, ils ont fini. Et après, ils s'en vont chez eux et ils ne reviennent plus en arrière. La fermeture de Ofruno dans une journée particulière ou vraiment la fermeture totale? La fermeture. Non, la fermeture. Pour chaque personnage est à la fin de son jour de travail ou de sa pause de travail. Et donc tu as un personnage qui voilà, il a fini à 10h du soir et puis il va rentrer. Et à un moment, et qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là, tu vois? Oui, on est à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il peut penser quand il a vraiment fini, quand il a passé 35 ans là-bas, et ça va être fini. Son dernier jour de travail, donc. Oui. Oh là là. Et donc on suit comme ça. On commence par un Italien d'ailleurs. Oui. On commence par Luigi. Luigi. Et puis voilà. Et puis on terminera aussi par un Italien aussi. Ah d'accord. Oui, c'est le sixième, non? Est-ce qu'il y a aussi, vu qu'on parle du dernier jour de travail, tu as pensé par exemple à l'élaboration du lucte, est-ce qu'il y a dedans l'élaboration de la mort, entre guillemets? Parce qu'en psychologie, quand on change de travail, oui, on parle d'élaboration de la mort. C'est une... De la mort, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça, en fait. Ah voilà, l'élaboration de la mort, c'est très bien. C'est, oui. Ça fait partie aussi de l'histoire. Dernier jour du travail, il y a comme une mort, hein, toi qui as lu. Oui. Voilà. Alors, on ne peut pas dire de plus, parce voyez, que sinon... Même en écoutant, on commence déjà à développer quelque chose. La mort est présente. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il y a ses protagonistes, le commissaire, Mario, il y a Saïd, et il y a d'autres histoires qui commencent en fait à se rencontrer dans le même pays, donc sous le même ciel, le ciel de Serein. Et pourquoi tu as voulu aussi décrire de la crise économique et financière? Parce que cette entreprise dont je parle, qui a son travail à Serein, maintenant elle est devenue multinationale. Et donc, mais elle existe toujours? À l'époque, c'était Cochril, qui n'existe d'accord. plus, oui. qui a été racheté par une société multinationale. Donc, Serein est un point sur l'échiquier international. Et donc, tu ne peux pas parler d'un point si tu ne parles pas de l'ensemble. De l'autre. Oui. Et donc, forcément, comme c'est une société multinationale, il se passe quelque chose, il y a des liens avec le multinational. Et donc ça, c'est le local et le global. Ensemble. Et il y a aussi encore d'autres histoires. Et tu racontes beaucoup aussi du Japon. Pourquoi? Parce que tu aimes bien ces pays-là ou c'est tout à fait par hasard ou tu as voulu raconter aussi des ninjas et d'autres trucs pareils? Le Japon... J'ai pris le Japon parce que quand cette entreprise a été rachetée, il y a eu une grande bataille juridique et une grande OPA, dans laquelle, à un moment, on a pressenti l'entreprise japonaise qui pouvait rentrer dans le capital. Et ça ne s'est pas passé comme ça, mais ils ont été écartés. Oui, tu l'as dit aussi dans le roman, d'ailleurs. Voilà, et donc quelque part, ils ont été écartés. Et ça leur est resté un petit peu sur l'estomac. Donc voilà, ils veulent se rattraper. Voilà, ils veulent quand même rentrer dans l'entreprise. Mm-hmm. Voilà, je ne raconterai pas, je ne dévoilerai l'énigme de l'histoire. Mais voilà, c'est ça. Ils sont très présents. Mais OPA, c'est offert d'achat public. D'achat public, oui. Rattachement des actions auprès des actionnaires. Tout à fait, oui. C'est... Pour expliquer. Et alors, donc, il y a le local qui rencontre le global, et il y a des vies aussi sur lesquelles on joue. Parce qu'il y a des gens qui, comme on a dit, perdent leur vie. Et selon toi, pour quel but? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui est très intéressant, il y a les réflexions de ces gens qui terminent leur carrière avec d'autres réflexions encore. Et tandis que tu étais en train d'écrire, qu'est-ce que tu pensais vraiment vis-à-vis de la société, des idéaux présents dans notre société, je vais dire. Quelle était ta pensée? Tu pensais à quoi en particulier? C'est comment un individu peut s'en sortir dans le monde actuel? Quels sont ses idéaux? On part des travailleurs à la base. Pour eux, leur idéal, c'est de terminer leur travail, d'avoir un salaire et de pouvoir continuer à vivre dans leur vie, continuer leur travail. D'autres ont d'autres idéaux. Mm-hmm. Il y a des idéaux d'argent. Ouais. Alors, les travailleurs aujourd'hui sont déplacés, sont changés d'emploi, sont licenciés, comme dans un jeu où eux n'ont aucune importance. Tu vois? Est-ce que tu veux lire il y a un passage, moi je trouve, à la page 92, qui est très intéressant par rapport à ce que tu es en train de dire maintenant. Comme ça, on peut le partager avec nos amis à l'écoute. Donc, nous, les hommes du feu, les durs, se dit-il, allons déposer nos outils, écrasés par l'argent des anonymes. Ils ne comprennent rien du tout, les autres. Fermer un haut fourneau, ce n'est pas seulement supprimer une usine, créer du chômage, c'est aussi supprimer le lieu du verbe, de la parole rouge. Il faudrait qu'ils lisent autre chose que leur magazine sportif à la con. Que faut-il faire, nom de Dieu? Tout casser pour leur foutre la trouille? Ou alors de sacrifices humains, comme dans le temps? Une vierge, par exemple. Quand ils ont rallumé le 6 à Serein, ils ont demandé à Gérard de revenir. Revenir sur un cimetière? Non, merci. Retravailler au 6 pour des vins financiers? Non, merci. La nuit était son domaine. C'est pour voir cette pourpre de soleil levant qu'il avouait toute sa vie au travail nocturne. Petit à petit, il a perdu l'espoir d'assister à l'avènement du grand soir. Lui, un bon matin, il verra de son jardin le démontage du haut fourneau. Il est rentré à l'usine à 19 ans. Et de nuit en nuit, la vie est passée. Ben, moi, je trouve ce passage magnifique, en fait. Il explique très bien aussi la différence entre un monde qui existait auparavant, qui n'existe plus maintenant, et ce qu'il y a maintenant dans le monde du travail. Il y a aussi une autre page dans laquelle tu dis qu'il y a, des jeunes hommes qui veulent gagner entre 5 et 6 millions par mois. Enfin, oui, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est les traders. Voilà, donc... Alors, il y a une comparaison entre le trader à la bourse, qui ont un certain objectif de gagner autant par mois. Et ce n'est pas en 1000 euros, c'est en millions. Oui, oui, oui, non, il y a une très grande différence. Est-ce que... Tu as eu l'occasion de présenter déjà ces romans ici à Bruxelles, dans notre endroit? Non, pas encore. Oui, parce que je sais qu'ils viennent de sortir. Ils viennent de sortir. Pour savoir un peu si tu avais eu des réactions, des commentaires. Les réactions des gens qui le lisent sont comme tes réactions à toi. On rentre dedans, oui, tout à on fait. Veut aller jusqu'au bout, ne pas le lâcher. Qu'est-ce qui va arriver? Voilà, les gens qui l'ont lu m'ont fait toujours des compliments. Oui, et moi aussi, je peux confirmer aussi ces compliments. Est-ce que tu es en train d'écrire déjà autre chose? Il y a une idée. Ah, à développer. Il y a une idée à développer, avec les mêmes personnages. Ah, mais nous ne serons plus dans la sidérurgie. On va changer de nom. Oui. Mais Mario Vukovic va rester. Normalement, il reste. Il reste. Mario Vukovic continue sa vie. Avec Saïda. Oui, aussi. Pourquoi pas? D'accord, Georges, tu as une question? Oui, mais non, cette dernière question, l'idée de maintenir le même personnage, c'est intéressant. Donc, les deux mêmes personnages, ce ne sont pas seulement les personnages principaux, ça veut dire Mario et Saïda. Oui. Il y a aussi les autres qui vont rester dedans. Oui, en fait, il y a Mario et sa famille. Donc, il y a sa femme, son fils et sa fille. Et puis, il y a Saïda qui est sa collaboratrice, mais comme dans le livre c'est expliqué que le commissaire est à un basculement parce que lui aussi arrête de travailler. Mm-hmm. et donc dans le prochain livre il ne sera plus à la police, il sera libre. D'accord. Et voilà, il sera libre du corps de police. Donc voilà, une autre idée s'élabore actuellement. Voilà, mais personnages principaux resteront. Est-ce qu'il y aura un lien, tu penses, entre les deux? Est-ce qu'il y aura quelques traces aussi de ces romans-là ou pas du tout? Décidez-vous juste pour le moment, non, il n'y en a plus question. C'est fini comme les mineurs. C'est la vie, ils sont... Bon, voilà, on va voir ce qui se passe avec l'entreprise, mais non, on va changer complètement de milieu. Et la dernière question, c'est... Est-ce que, quand on dit serein, c'est serein? Serein, oui. On a joué dans des livres aussi avec les mots. Oui, bien sûr. Bien sûr, puisque bon, comme c'est un lieu d'entreprise, il faut imaginer un ciel avec des fumées, il faut envoyer un ciel un peu gris. Hein. Ouais. Et puis, Serein, c'est aussi un ciel bleu. Oui. Et donc, si le ciel est bleu à Serein, c'est qu'il n'y a plus de fumée, il n'y a plus d'entreprise. Et donc, on joue entre cette ambiguïté. Oui, c'est ambigu parce que d'un côté, c'est négatif. Parce qu'on a plus la fumée, mais de l'autre côté est positif. Donc, il y a ce jeu aussi dans. Il y a ce jeu, et puis il y a ces transformations, puisque dans le lieu de Serein, l'entreprise se ferme, et donc les travailleurs, bon, vont être licenciés, vont aller en prépension, etc. Et à quelques kilomètres de là, dans les collines verdoyantes, il y a un renouveau du travail, mais qui n'est plus du tout le même. C'est un travail de laboratoire, c'est un travail où on va dans le plus petit, dans le petit, dans les nanotech, voilà. Ouais. On travaille en gants blancs, alors qu'évidemment, de l'autre côté, ils travaillaient avec des grosses machines, des choses bruyantes, sales, etc. Et dans le grandiose. Et là, ils travaillent dans le plus petit. Avec un converteur Bessemer, je rappelle bien. C'est le grand converteur. Quelle référence! Tout à fait. D'accord. Ecco. Bozidar. Sì. Voilà, on a fait ti le tour. Ti ringraziamo. On a fait le tour avec Luigi. Avec tous les Italiens présents aussi. Oui, il y a aussi des mots en italien dans les livres, parfois. Oui, voilà, il y a des mots italiens, forcément. quand les Italiens s'énervent un petit peu, ils oublient leur français. Voilà. Et là, voilà. L'italien, c'est tout à fait normal. L'italien revient en force. Voilà, donc, je te souhaite une bonne fin de lecture, parce merci. Que tu es arrivé à cette page-là, mais après, ça. Oui, après, ça il faut que tu t'accroches. Hein, parce ça que, me wow. reste 45 pages. Encore à lire. Et après, ça sera mon tour. Tout à fait. Je te le passe. Alors, Ciel serein, Bozidar Frédéric, édité par Meo Édition. Donc, je voudrais aussi dire bonjour à notre ami Gérard, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui avec nous. Mais voilà, j'espère le rencontrer très bientôt. Et à Bozidar, nous nous souhaitons bonne chance. Oui. Avec ton roman, et j'espère à très bientôt. Grazie tanto, alla prossima. Prego. Dobro vece. Ed eccoci nuovamente qui, lo dicevamo in apertura che sarebbe stata una puntata abbastanza complementare questa volta con i temi, infatti passiamo dall'acciaio al carbone, e sono molto contenta perché ritorna con noi nostra ospite dopo credo 2 anni, Maria Laura Franciosi, che è stata corrispondente per varie testate italiane, non solo a Bruxelles ma anche a Londra, ed è stata anche lungo tempo in Italia. Penso che la comunità italiana, non solo italiana, la comunità internazionale oserei dire, dovrebbe essere molto grata al lavoro che Maria Laura ha svolto in passato, perché è stata credo tra forse la prima ad occuparsi seriamente, in maniera scientifica, dettagliata, proprio con storie vere, di quella che è stata l'immigrazione italiana in Belgio. Maria Laura, vorrei ricordarlo, è stata autrice di questo libro straordinario, Per un sacco di carbone, che ha raccontato quello che è stato l'arrivo degli italiani sia in Vallonia sia nelle Fiandre, e ha raccolto tante storie. Ha raccolto le storie prima di Marcinelle, ha raccolto le storie dopo quella catastrofe che tanto ha caratterizzato anche le relazioni tra l'Italia e il Belgio, e ha raccontato le storie di tanti che erano partiti lasciando l'Italia, per l'appunto con la speranza di una vita migliore, e purtroppo tanti di loro non sono riusciti a terminare come avrebbero voluto quella loro esperienza. Dopo tanti anni Maria Laura è stata veramente impegnata tantissimo nel settore, e se so tante cose proprio su questo argomento lo devo a lei, che tanto mi ha parlato di queste sue esperienze, può dire con grande soddisfazione di aver realizzato un altro piccolo grande sogno, perché da qualche tempo quel Bois du Casier, tanto amato, odiato, che tanto ha fatto soffrire e che magari ha dato anche tanto gioia, è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Da una settimana. Da una esattamente settimana. Domenica scorsa. Da una settimana. Non solo, questo progetto si iscrive in un discorso molto più ampio, tant'è che probabilmente, poi correggimi se sbaglio, ci sarà anche finalmente una strada del carbone, proprio a ricordare quelle che sono state le tappe più importanti di quel fenomeno, come tu mi dicevi, come tu mi hai detto la prima volta che ci siamo incontrata, quando si era sotto su nelle miniere, eravamo tutti uguali perché eravamo tutti col viso nero, quindi, come a dire, la costruzione europea, perché di questo stiamo parlando, tra il carbone e l'acciaio, si basa proprio su quelle persone che hanno avuto il viso nero e quindi l'integrazione europea nasce proprio da lì. E ricordiamolo, nella tragedia di Marcinel non morirono soltanto italiani ma anche belgi, francesi, 12 paesi, sempre. Quindi voglio dire, è una catastrofe che non riguarda soltanto noi ma tante altre comunità. Maria Laura, benvenuta. Grazie. Forse sono stata un po' prolissa nell'introduzione. E quando tu hai cominciato a scrivere per Un sacco di carbone, man mano che raccoglievi queste storie, che cosa pensavi rispetto a questo nostro paese natio, l'Italia? Beh, tante cose, ma soprattutto pensavo all'importanza di queste storie che andavano conservate, andavano preservate, e al fatto che nessuno in Italia conoscesse queste storie, e allora che bisognava comunque non solo raccogliere le storie di tanti minatori, di tante vite all'estero, ma soprattutto fare in modo che queste storie si potessero diventare un po' oggetto anche di interesse da parte del grande pubblico. L'interesse c'era da parte dei ricercatori universitari, e chiaramente c'erano molti lavori scientifici su questo, ma il grande pubblico era completamente all'oscuro, e quindi era più che altro il grande pubblico. Come far conoscere queste realtà al grande pubblico? Attraverso la creazione di musei, cioè un museo, cioè quello che erano una volta le miniere di carbone, dovevano diventare qualcosa che potesse ritrasmettere quell'epoca, ritrasmettere quelle vite, quelle storie, quelle esperienze, e quindi appunto creare un museo. Prima è stato molto interessante l'autore che ho sentito parlare, Bosidar, racconta di un'esperienza appunto a Seren, dove erano installati le acciaierie. Seren è pieno di emigrati italiani appunto, e molti di questi lavoravano nelle acciaierie, ma molti anche nei pozzi di carbone. Ed è in effetti non lontano da lì c'è un'altra grossa miniera, che è quella di Blegny, e anche questa miniera è, come dicevamo all'inizio, è stata inclusa in questo percorso della route du charbon, ma appunto percorso riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Sono Blegny e il Bois du Cazier, dove avvenne la tragedia che tu hai ricordato l'8 agosto del 1956, dove morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, la metà erano italiani, cadute in disuso una volta chiuse le miniere, l'ultima miniera la miniera di Marcinel fu chiusa nel 67, l'ultima miniera della Vallonia fu chiusa nel 93. 72, no, della Vallonia, l'ultima miniera Vallonia. Del Belgio si chiuse nel 93 ed era nel Limburgo, nelle Fiandre, perché erano miniere più moderne, e comunque queste miniere erano cadute in disuso, anche abbastanza pericolose e pericolanti, e quando infatti ho cominciato a raccogliere testimonianze e a fare foto, filmati su queste miniere, dovevo firmare, quando sono entrata al Bois du Cazier, dovevo firmare un documento che appunto eliminasse ogni responsabilità per conto da parte delle autorità che gestivano questi luoghi, se mi succedeva qualcosa, perché erano luoghi pericolanti. E infatti, quando ho cominciato a incontrare i vari minatori dell'epoca, la miniera era chiaramente già chiusa da anni, la prima cosa che i minatori di Marcinelle, l'associazione minatori di Marcinelle, mi chiese fu di cercare di salvare la miniera, che era invece destinata a essere rasa al suolo, e le autorità locali volevano farci un supermercato sopra. Per i minatori questa sarebbe stata un enorme oltraggio, perché era per loro, specialmente il Badio Casier, era un luogo sacro. Questo è un luogo sacro, mi dissero, specialmente un minatore, Silvio Di Luzio, che all'epoca della tragedia era sceso in miniera, faceva parte della squadra di salvataggio, era sceso in miniera per 15 giorni consecutivamente insieme agli altri del gruppo di salvataggio, per cercare di salvare alcune vite, e soprattutto per cercare di individuare tutti questi minatori, dove erano. Una parte dei minatori morirono nell'incendio, ma un'altra parte erano al di sotto dell'incendio, quindi si salvarono, cercarono scampo e cercavano lungo le gallerie di rifugiarsi altrove. Però mancò l'aria e dopo giorni e giorni chiaramente sono morti, e per loro questo era un luogo di sacro, perché era pieno di morti, ed ecco perché loro volevano, i minatori mi hanno chiesto di fare in modo che da insistere presso le autorità perché il luogo venisse preservato. E quindi per me la cosa importante era di farci un museo. Le autorità locali ovviamente non volevano sentirne parlare, addirittura ci fu un momento che per utilizzare la grande sala che è chiamata la Salle des Pendus, dove i minatori attaccavano i loro vestiti e l'uniforme, l'attaccavano con il loro numeretto al soffitto, ed era un salone enorme con mattonelle bianche tutto intorno, appunto dove c'erano tutti i loro abiti, e dove rimasero tutti gli abiti dei poveri morti. In questo salone le autorità locali avevano autorizzato la creazione di un poligono di tiro, e quindi la gente si esercitava a sparare con pistole, e i minatori erano fuori di sé perché non potevano accettare che un posto di nuovo sacro come quello che era la miniera potesse essere utilizzato. Quando si seppe che sarebbe diventato un supermercato, erano veramente cominciarono a protestare, e quindi io ho un po' partecipato a questa azione di protesta, cercando anche di attivare i media locali, certo, e vari media eccetera, parlando anche con le autorità. Non ebbi al momento molto successo, ci furono anche delle battute ironiche, perché io a un certo punto dissi è un luogo sacro questo, sono morti tanti italiani anche insieme a tante altre nazionalità, e allora mi venne detto allora perché le autorità italiane non tirano fuori loro i soldi per creare un museo. E allora ho risposto, veramente siamo in Belgio, e quindi magari il museo lo dovrebbero fare i belgi. E poi non ne ho più saputo niente per 2 o 3 anni, e poi un giorno mi hanno chiamato per chiedermi se volevo partecipare a tradurre dei testi per il museo del Badio Casier. Dico bene, allora un primo passo è stato fatto. E poi continuavo a dire che secondo me questo luogo doveva essere riconosciuto anche al di fuori, non soltanto diciamo dai minatori locali. In effetti questo museo è andato avanti, hanno fatto un luogo molto, molto interessante anche come storia del museo, anche sì, dell'industria locale, sì, eccetera, anche se alcune parti sono state un po' distrutte, chiuse, ristrutturate, eccetera, ma quando io l'ho visto questa miniera era, molti degli edifici avevano il tetto crollato, i ragazzini ci entravano a giocare, incendiavano tutto il materiale che c'era, c'erano i libretti dei minatori, c'erano i grandi registri, i topi li avevano mangiati, era veramente in uno stato di completo abbandono. Quindi hanno salvato quello che poi potevano salvare. Alcuni minatori l'hanno portati a casa loro, nei garage, conservando questi libretti di lavoro, e a un certo punto, quando sono andata a presentare il libro per un sacco di carbone in alcune città italiane, mi ricordo che il comune di Bologna mi chiese di trovare dei libretti, delle testimonianze, dei documenti su, mi sembra che fossero i 5 morti a Marcinelle della regione Emilia-Romagna. E io sono riuscita a trovare 3 documenti, 3 libretti di lavoro di questi 5, quindi in questa presentazione a Bologna l'ho consegnati al sindaco, alle famiglie, e diciamo, ecco perché ho dimostrato in pratica l'importanza della conservazione della memoria, una memoria che per molti è stata fondamentale. Poi da allora in quella zona specialmente mi scrivevano, volevano il libro, quindi era anche un modo per veramente per onorare, come dicevi tu prima, la memoria, per non dimenticare, e quindi piano piano poi si è fatta strada l'idea di fare in modo che ci fosse un maggiore riconoscimento di tutti questi luoghi nella memoria mineraria. C'era un altro museo, il Bois du Luc, un altro luogo, appunto era un'ex miniera, estremamente interessante. Infatti fu probabilmente quando visitai lì, quello era già un museo, diventato un museo, per la volontà di un gruppetto di minatori, anche loro di origine italiana, e un prete locale che era belga, che quando la miniera è stata chiusa, la miniera di Bois du Luc è stata chiusa, ha lanciato un appello a tutti i minatori della zona dicendo: venite, aiutatemi a raccogliere tutto il materiale della miniera che era stato buttato nei, come si dice, i grandi container per buttarli via. C'erano strumenti, c'erano documenti, eccetera. E quindi hanno raccolto tutto e l'hanno portato nei loro vari garage, depositi, eccetera, per conservarlo. E poi il prete stesso, l'abbé Pourbet, è stato effettivamente un antesignano, e il mio ricordo va a questa persona stupenda, che è stato lui, diciamo, il primo a segnare la strada, a dire: questo materiale, questi ricordi vanno mantenuti per conservare la memoria. Addirittura nel piccolo museo che aveva allestito in un angolo della miniera, aveva conservato delle lastre, le lastre dei polmoni di alcuni minatori, che si vedevano completamente nere, si vedeva, cioè, tutta la polvere nera che questi poveracci avevano respirato. E aveva conservato tutti i libretti, e di nuovo questa preservazione della memoria per me è stato un enorme mi ha fatto molta impressione, ed è stato in quella occasione che ho detto: devo assolutamente scrivere un libro sulla vicenda dei minatori, perché nessuno ne parlava in Italia, nessuno ne sapeva niente. e anche in Belgio volevano distruggere tutto. E ero in questo piccolo, era piccolissimo museo che aveva appunto creato questo Abbé Pourbé con l'aiuto dei minatori, e un giorno ero nel salone d'ingresso e sono arrivati due ragazzi, uno più giovane e uno più un quindicenne, un diciottenne, e hanno parlato, sono andati a parlare con l'Abbé Pourbé, l'Abbé è partito immediatamente nel suo ufficio ed è tornato con un foglio in mano e ha consegnato questo foglio ai ragazzi, e ho visto il viso di questi ragazzi che si è illuminato a vedere questo foglio, come se avessero letto una bella notizia. E allora io, curiosissima, sono andata dall'Abbé Pourbé e gli ho detto: ma cosa c'era su quel foglio? Dice: questi due ragazzi sono due turchi, uno abita in Turchia, l'altro è un cugino, abita qui, il nonno era minatore in questa miniera, e sono venuti a chiedermi se per caso c'erano delle testimonianze del nonno, mi hanno dato il nome, io sono andato e ho trovato il libretto di lavoro e gliel'ho fotocopiato. E quindi loro avevano in mano questo ricordo del nonno, che era probabilmente l'unica cosa che avessero. E allora mi sono detta: è importantissimo conservare questa memoria. E il Bois du Luc, oltre ad essere una miniera, è proprio una cité mineraria, ed è bellissimo. Dove si trova questo Bois du Luc? È vicino alla Louvière. Vicino alla Louvière, quindi siamo sempre lì. Sempre questo è il secondo, e l'altro è il Grand Ornu, anche questo, cioè di questi quattro luoghi minerari che hanno avuto questo riconoscimento, devo dire, ambitissimo da parte dell'UNESCO. In Belgio ci sono pochissimi monumenti riconosciuti dall'UNESCO, sono i Béguinages, Les ascenseurs de bateau, degli ascensori a stretti, sì, credo, due. E poco altro, non ci sono grandi monumenti, ce ne sono una decina, credo. Comunque questi minerari, è la prima volta che una miniera viene riconosciuta monumento, cioè delle miniere. E le due, il Bois du Cazier, il Bois du Luc e il Grand Ornu, che era una grande miniera, anche questa circondata da una cité, hanno avuto il riconoscimento come luoghi sociali, per l'aspetto sociale, perché c'erano tutte queste... queste casette tutte attaccate l'una all'altro, era proprio la struttura sociale di come vivevano questi minatori, era molto interessante, con la chiesa, l'ospedale, erano tutti legati. Addirittura il Bois du Luc aveva una caratteristica, mi raccontava l'Abbé Pourbé, interessante, perché aveva i tetti neri di ardesia, queste casette di due piani, erano piccole case di due piani, tutte a schiera. Sì. Quindi il tetto di ardesia, il colore dell'edificio era giallo, e poi per terra tutta l'asfalto era un pietrisco rosso, quindi era un po' la bandiera belga. Ahimè, io ascolterei Maria Laura per ore, veramente starei qui ad ascoltarla per ore e ore, anzi giorni, ahimè, purtroppo in radio il tempo è tiranno. Direi magari di passare la parola alla nostra Fiordaliso e di concludere poi con Maria Laura. Come no. Sigla iniziale, Librangolo. Già mi sono spaventata che non avrei mai avuto più delle canzoncine. Ora mi sono calmata. È una sigla più sobria. È più sobria. Sobria. Sigla mignon. Comunque, per risollevarci un attimino, dalle industrie. Ora parliamo dell'arte della gioia di Goliardo Sapienza. Ah, però! Che è un libro comunque abbastanza solare, anche se ci sono molte scene abbastanza difficili e non è una vita molto, diciamo, facile che si racconta. Comunque è impregnato prima di tutto dal sole della Sicilia, tutto il libro. Cioè anche questo ritmo di parlare con l'inversione, con mettere tutti i verbi alla fine, semplicemente diventa un ritmo che... non lo so, cioè a me davvero mi sembrava proprio un linguaggio solare, ma anche molto essenziale. E anche la storia è molto interessante, cioè specialmente la sua protagonista, che si chiama Modesta, la povera, e che prima di tutto è una donna molto libera, cioè una donna libera che non si lascia né a imprigionare dentro la povertà, dentro la mancanza di affetto, dentro le idee, le falsità o anche gli egoismi altrui. Cioè lei rimane sempre libera di queste cose, anche se questo comporta molto spesso delle scelte che non sono né facili né facilmente condivisibili. Ecco. Un'altra cosa bella di questo personaggio è la sua ricerca della verità, cioè la sua ricerca della essenza, che si estende anche sul mondo delle parole. Cioè lei non piace che le parole siano utilizzate con falsità, quindi lei sta cercando la precisione nell'esprimersi. Quindi c'è una scena bellissima in cui le si chiede se lei ama suo figlio, e lei risponde: no, ma li voglio bene. E questo mi è parso già, cioè un'espressione proprio di questa sua ricerca di dire le cose vere e di non entrare né nel falso dell'emozione, ma senza anche negare quell'emozione che comunque c'è nella sua vita, quella passione con cui ama la gente che la circonda, che però non necessariamente è... Cioè, non necessariamente fanno anche gli altri tutte le scelte che noi possiamo magari condividere o che possiamo amare, diciamo, come scelte. E questa è un'altra cosa molto interessante di questo personaggio, è la sua capacità di lasciare gli altri liberi. Fondamentalmente quello che lascia lei a tutti quelli che stanno attorno a lei è la scelta. Da educazione a suo figlio, ma anche a un sacco di bambini che alla fine lei raccoglie attorno a sé, che vengono, capitano là per caso e lei li accoglie e gli dà un'educazione che già è una grande base di scelta, ma lei dà, cioè non li limita, cioè non cerca di ingabbiarli. Quella libertà che lei si concede a se stessa è un dono che fa anche ad altri. E quindi è un personaggio, diciamo, fantastico, se possiamo dirlo così. È un personaggio che riscalda, secondo me, dopo un po' riscalda anche chi legge, quando inizia il libro, fondamentalmente secondo me il lettore avrà uno shock e non si immaginerà mai come riuscirà a sviluppare accanto a questo personaggio un affetto per quello che sta facendo alla fine. Cioè, e uno riesce ad un certo punto alla fine giustificare che sì, cioè tu che hai fatto così tanto bene nella vita altrui potevi anche cominciare così, ti capiamo. Cioè è anche un libro che spiega un po', non è che spiega, che fa sentire attraverso un esempio questa impossibilità di categorizzare la gente in nero o in bianco e di mostrare come certe cose siano a volte necessarie per sviluppare una cosa bella alla fine. Non so se mi sono spiegata. Comunque, magari soltanto per spiegare molto brevemente il titolo, secondo me esprime anche il fatto che il personaggio principale fondamentalmente sceglie di essere gioiosa, contenta, felice. Perché spesso nella vita abbiamo la scelta di piangere sopra le scorie del nostro passato o di accettare certe cose e di essere fautori, diciamo, di quello che sta succedendo nel momento presente. E lei è una che sempre sceglie, diciamo, di essere contenta anche in situazioni difficili. Quisque faberest suae fortunae. Sì, sì e no. Però fondamentalmente per questo personaggio decisamente sì. Comunque è una bella lettura, secondo me riesce a dare energia, quindi ve lo raccomando, per rimettervi dal lungo periodo di lavoro e di sprofondarvi in questa bellissima storia, L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Che già il nome, insomma, Goliarda. Goliarda Sapienza, beh, è un nome d'arte, no? No, vero. Sembra, pensavo fosse un nome d'arte. No, no, non è un nome d'arte, sembra un ossimoro quasi. Qua? Goliarda Sapienza, però. Sì, sì. Vabbè. Perciò pensavo fosse un nome d'arte. Siamo in chiusura. Sì, però io devo fare eccezionalissimamente, si può dire eccezionalissimamente? Sì. No, sì. Tu sarai esperto. Sì, sì. No, non si può, io non credo, perché eccezionalmente... Sì, sì, sì. Abbiamo qualcuno qua che la lingua lavora, dice la lingua è elastica, si apre, si muove. Scegli la libertà di scegliere. Devo farvi gli auguri di compleanno, sì, carissimo amico mio. Prego. Caro Mimmo, ecco, dalle onde di Radio Alma a Bruxelles, noi qui al fresco, anzi sotto la pioggia, mentre tu sei al caldo e ti diverti, beh, tanti auguri di compleanno, non mi sono scordato, aspettavo di farteli in radio. E Bruxellando si unisce agli auguri dell'amico del nostro Giorgio, e quindi insomma auguri quintuplicati, si può dire? Sì, sì, certo. Vabbè. Qui è proprio italiano classico, non c'è nessuna flessibilità. Va bene. Dicevamo che avremmo concluso con Maria Laura. Cosa hai provato quando hai saputo di questo riconoscimento? Beh, mi hanno chiamato dal museo di Bois du Cazier per dirmelo. Ho visto in questa chiamata anche un riconoscimento un po' di tutto il lavoro che era stato fatto, anche se poi, diciamo, questo mi ha spinto anche a chiamare i vari colleghi per raccontare, certo, la storia, e la storia è stata coperta da vari giornali, perché in effetti tutti adesso conoscono Marcinelle e il Bois du Cazier grazie al lavoro che abbiamo fatto. Ecco, quindi complimenti veramente, questo è un concludere effettivamente dignitosamente e un ricordare, come dicevamo prima, delle vite che idealmente si trovavano qui per migliorare la loro situazione. Salutiamo Dani M. Regia. Buona serata a tutti. Salutiamo la nostra Fiordaliso, che è sempre straordinaria con questi veramente suggerimenti di lettura. Un giorno mi dovrai dire qual è la tua fonte. Grazie, buona lettura. Beh, Goliarda Sapienza, effettivamente. Bellissimo, non un programma. Saluto invece io prima di tutti, saluto la grande, incomparabile, ineguagliabile, insuperabile Mary B, senza la quale, come dico sempre, tutto ciò non esisterebbe. E noi ringraziamo sia Bosidar, che è stato qui con noi prima, e vi ricordo, sia il Sema edito dalla casa editrice MEO, sia la nostra Maria Laura, che è stata qui a raccontarci di questa bella storia, finalmente, sul riconoscimento alle miniere della Vallonia, riconosciute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Quindi vi auguriamo una splendida settimana, per quanti dovessero partire buone vacanze, per quanti sono ancora qui godetevi questo clima fresco, perché... E non c'è molto, sia sarà. Prima di chiudere una domanda, certo, ma non voglio la risposta, ma vocalis ante vocalem non era breve? Questo se lo potrebbe dirti la nostra amica accanto a te, che è stata silente tutto il tempo. Saluto anche Federica, e con questo buona settimana a tutti. Ciao. Ciao.